Esterino Montino, che lei sappia, domenica ci sarà questa intervista a Luce Annunziata, che già ha creato qualche mal di pancia qualche consigliere della RAI, a dire chissà se è opportuna anche quella. In questo caso andrebbe proprio in video, cioè un'intervista di mezz'ora Luce Annunziata. Ma questo non lo so se sia confermato o meno. Ora, primo, lui già due volte ha chiesto scusa. Secondo, è vero che c'è stato, c'ero anch'io presente, che nella primissima fase lui naturalmente ha negato, ma era il tentativo per togliersi di torno, diciamo, quello che era successo, che però poi dopo, subito dopo, il giorno dopo, esattamente 24 ore dopo, con me presente, ha deciso di fare l'atto di rinuncia alla sua carica. E quindi dopo 24 ore, e non è cosa di poco conto in una politica, in un paese dove nessuno fa una cosa di questa natura. Prendersela fino ad arrivare a metterlo alla fame, perché poi dopo uno, se non può lavorare in Rai, non capisco perché non può lavorare in Fiat, debba lavorare in Fiat o debba lavorare in un'amministrazione pubblica o un privato. Qualcuno quindi dice perché sono soldi del canone, ecco, ne fa, questo forse è un discorso moralistico proprio, no? Sì, ho capito, sono soldi nostri. Anche se facesse il dipendente di pubblico da qualsiasi parte, sono soldi. Certo, beh, chiaro. Oppure anche per esempio lavorare in Fiat, visto che la Fiat ogni tanto prende anche qualche finanziamento pubblico, questo a questo punto no, in ultima analisi anche lì sono soldi, diciamo. Ora, e poi non c'è una cosa che mi turba molto, è questa: non capisco chi invece è stato scoperto andare con le mignotte, non c'è un giudizio morale o non c'è un giudizio diciamo tranchant come quello che si sta facendo con Marrazzo. Non credo che sia la stessa cosa. Io penso che sia un po' la stessa cosa.